Il gastronauta di Davide Paolini. Una buona giornata da Davide Paolini. Bene, io credo che fra un'oretta e mezzo circa buona parte degli italiani apriranno un pacchetto di pasta. Ebbene, avete mai letto l'etichetta? Vi siete mai chiesti perché manca la provenienza del grano? E secondo voi è un fatto negativo, oppure sapere che il grano da cui è fatta quella pasta arriva dall'Ucraina piuttosto che dalla Basilicata, o dal Canada piuttosto che dalla Puglia? Ecco, noi oggi discuteremo di questo argomento e sentiremo diversi produttori, diversi esperti. Andremo anche ad analizzare il perché e quali sono le difficoltà. Bene, cominciamo questo nostro giro partendo, diciamo metaforicamente, da Bruxelles, perché abbiamo con noi Riccardo Felicetti, produttore di pasta, nonché amministratore delegato di Pasta Felicetti, nonché presidente dell'Unione Pastai Europei. Ebbene, io la prima domanda che faccio a Riccardo Felicetti è questa: ma a livello europeo è sentito questo problema? Si sta pensando di far sì che nei contenitori di pasta sia prima o poi messa un'etichetta con la provenienza del grano, oppure non è un problema sentito? Buongiorno Felicetti. Buongiorno dottor Paolini, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori. Allora, la risposta è sì, anche a livello comunitario si sta cominciando a ragionare su quelle che possono essere le omogeneizzazioni delle indicazioni sulle etichette per i prodotti finiti a monoingrediente, come in questo caso la pasta. Ma ancora prima che gli organi del Consiglio europeo decidano a livello legislativo quello che si dovrà fare, e questo riguarda tutti i paesi della comunità europea, noi come associazione, come Unione Pastai a livello associativo, già ci stiamo impegnando e ci stiamo interrogando per valutare quali saranno le modalità più opportune con cui la pasta italiana dovrà evidenziare quelle che sono le materie prime con le quali viene prodotta. Questo è l'impegno che l'associazione e tutti i pastai in questo momento stanno mettendo all'interno delle loro aziende a livello associativo. Ecco, rimanga con noi perché abbiamo Lorenzo Bazzana, che è responsabile economico Coldiretti. Bene, come è noto, la Coldiretti da sempre si batte per la tracciabilità della filiera e si batte per il prodotto, la materia prima italiana. Allora chiedo a Bazzana, è notoriamente noto, lo accento in questa maniera, che il 100% del grano italiano non, diciamo, corrisponde al fabbisogno della produzione della pasta. E allora come fare, Bazzana? Noi crediamo che ovviamente sia comunque un fatto da evidenziare, è un fatto di trasparenza, è un fatto di conoscenza anche da parte del consumatore, è un fatto anche di valorizzazione di quelle che sono le provenienze, che non necessariamente sono appunto tutte italiane. Noi crediamo che i tempi siano maturi, l'abbiamo visto con l'etichettatura già di altri prodotti, e crediamo che un prodotto di eccellenza come la pasta, appunto, che si basa su un monoingrediente, abbia tutte le caratteristiche per poter avere, diciamo, la maturità per finalmente esplicitare al consumatore quella che è la provenienza della materia prima. Senta Bazzana, lei pensa che arrivando a questo, appunto, alla etichettatura con imposto la provenienza del grano, si possa incentivare la produzione italiana e far sì che quel gap venga colmato? Ovviamente noi vediamo che l'andamento è un andamento altalenante, in certe campagne abbiamo quasi la quantità di grano che potrebbe essere sufficiente per produrre tutta la pasta che ci serve, in altri casi invece ci sono delle situazioni in cui appunto questo non si riesce ad ottenere. Noi crediamo che in ogni caso sia un'opportunità sia per valorizzare la capacità nostra di produrre dei grani di qualità, ma anche uno stimolo per poter appunto andare in competizione con chi fa grani d'eccellenza anche al di fuori del nostro paese. Senta Felicetti, lei glielo chiedo come produttore, ma ci sono molte differenze qualitative tra il grano che viene prodotto in Italia, ad esempio la semola dura, e quella che arriva dall'estero? Ma vede, è un discorso che non può essere generalizzato in questa maniera. Ogni ettaro di terra in Italia, come ogni ettaro di terra all'estero, dà un grano duro diverso. Il nostro compito, quello di tutti i pastai d'Italia, è quello di selezionare le materie prime e di coacervarle, cioè di miscelarle in maniera che il nostro fruitore finale non si trovi un giorno a cucinare gli spaghetti in 8 minuti e il giorno dopo in 12 perché la pasta non cuoce più, per differenze di valori nutrizionali, di proteine, di glutine, di indice di glutine. Ogni zona d'Italia ha delle valenze diverse ed ogni zona d'Italia ha delle sue eccellenze. È chiaro che a prescindere dall'eccellenza del prodotto italiano, più o meno garantita nel corso degli anni, perché qui poi di stagione in stagione si sentono le differenze, sono sostanziali talvolta, ci sia la necessità di addizionare queste quantità, e parlo di volumi, anche con delle qualità diverse che garantiscono comunque una omogeneità di prodotto. E qui parliamo di prodotti di grande consumo, quelli che in questo momento ci danno la possibilità di fornire 28 kg all'anno a ogni cittadino italiano. Non stiamo parlando di eccellenze, perché queste possono sicuramente, lavorando nella nicchia, andare a cercare delle piccole aree geografiche, dei piccoli appezzamenti nei quali poter prelevare delle ottime materie prime. Ma qui stiamo parlando di un valore globale, di un pensiero globale che deve parlare di pasta italiana e non delle eccellenze. Bazzana, per parlare di prezzi, ci sono molte differenze tra il grano che arriva, appunto, parliamo di semola dura, ma potremo parlare anche di altro, cioè di altre tipologie, tra il nostro grano e il grano che arriva dall'estero. Ma anche lì c'è un po' di tutto, cioè, per certi versi possiamo anche condividere il ragionamento di Felicetti, nel senso che c'è un'importazione di prodotto d'eccellenza che serve per migliorare le caratteristiche di altri prodotti, ma c'è anche l'importazione di un prodotto che non è assolutamente di eccellenza, quindi anche qui abbiamo un momentino una situazione stratificata e diversificata. Quello che deve essere assolutamente chiaro è che non è che già di partenza il grano italiano sia un grano di qualità inferiore agli altri. Oltretutto ci sono delle esperienze che si sono concretizzate in questi ultimi anni di filiere che si sono messe insieme anche con dei territori in cui si è magari coltivata la stessa varietà o le medesime varietà con un processo di coltivazione basato su delle strategie agronomiche adeguate, in modo tale da poter arrivare ad avere i volumi e la qualità che poi servono all'industria, grande o piccola che essa sia. Quindi noi crediamo che comunque ci siano le condizioni perché il sistema Italia possa dare quel prodotto che serve comunque all'industria e un prodotto con quel margine di sicurezza che magari molto spesso, dovendo approvvigionarsi sui mercati internazionali, diventa un pochettino più ballerino. Quindi noi crediamo che ci siano comunque le condizioni per arrivare alla fine di questo processo di valorizzazione. E noi stessi come Coldiretti abbiamo appunto delle filiere che abbiamo intrapreso di paste fatte col 100% di grano duro italiano, che assolutamente dimostrano che questo tipo di situazione per valorizzare l'attività dei nostri produttori si può fare. Felicetti, una domanda veramente secca. Lei pensa che sull'esportazione, le chiedo questo, che se su un contenitore di pasta ci sia scritto sull'etichettatura tutto made in Italy rispetto ad oggi invece che non c'è scritto la provenienza del grano possa aumentare l'interesse o possa rimanere tale quale, visto che pasta è sinonimo di Italia? Guardi, pasta è sinonimo di Italia e dottor Paolini, glielo confermo. Le confermo anche che il 75% della pasta prodotta al mondo non è prodotta in Italia. E questo significa che se vogliamo continuare a mantenere la nostra leadership qualitativa, dobbiamo dare una garanzia. Questa garanzia passa attraverso il know-how dei pastifici italiani, passa attraverso la loro esperienza, la loro capacità di selezionare grani duri e la loro capacità di tradurli in prodotto alimentare che fa da locomotiva anche a tutti gli altri prodotti che compongono il primo piatto all'italiana, e voi li sapete meglio di me. Quello che io auspico, e lo auspico fermamente, sia come presidente dei pastai di Aidepi, sia come produttore, è quello di riuscire a trovare sempre e comunque, e sempre di più, quello che ha detto anche il dottor Bazzana, cioè un grande legame e una grande capacità di coesione all'interno di questa cosiddetta filiera, che faccia in modo di poter avere anche all'interno dello Stato italiano una capacità di comprendere quali sono le esigenze del mercato e forse anche in futuro la capacità di diventare autarchici e di poterci approvvigionare solo il grano duro italiano. Consideri che però ci sono in determinati territori italiani delle situazioni che rendono questa cosa piuttosto complessa. E col Diretti questo lo sa bene. Bene, grazie a Lorenzo Bazzana e a Riccardo Felicetti. Il gastronauta. Ormai si sta avvicinando l'ora della pasta e chissà quanta parte degli italiani stanno aprendo appunto il contenitore dove ci sono spaghetti, ci sono penne, insomma la pasta fa parte dell'italiano, fa parte degli italiani. Ma quanti di voi, aprendo e magari prima, danno un'occhiata a quell'etichetta? Io credo che molti non ci facciano molto caso. Perché? Perché ormai è scontato, cioè l'italiano, la pasta ormai ognuno di noi ha un marchio a cui fare riferimento, si fida, va avanti. Ma ecco, ci si pone il problema per la carne, ad esempio, ci si chiede: ma da dove arriva? Da dove arriva? È di allevamento? Non è di allevamento? È allo stato brado? Dei formaggi ci si chiede: ma il latte da dove arriva? Italiano? Arriva dall'estero? Sulla pasta questo si pone poche volte, rarissime volte. E appunto di questo che stiamo parlando e vogliamo un po' approfondire. Ora abbiamo con noi due diciamo che rappresentano due aziende, una mondiale e un'altra, chiamo locale, ma credo che Zampino non si offenda su questo, nel senso di dire un'azienda, una media azienda che rappresenta un fatto territoriale molto importante che poi vedremo. Allora, io voglio cominciare questo discorso con Luca Virginio, responsabile della comunicazione Barilla. Buongiorno Virginio. Ah, buongiorno Paolini. Allora, io la prima cosa che chiedo, la Barilla, da dove arriva tutto il grano con cui la Barilla produce i suoi enormi quantitativi di pasta? C'è una percentuale di grano italiano e questa è la direzione in cui sta andando? Allora, Barilla, piccola premessa, è il più grande utilizzatore di grano a livello mondiale, perché chiaramente facciamo dei volumi di pasta, come ha detto lei, molto importanti a livello mondiale. Gran parte del grano che noi utilizziamo per la produzione della pasta in Italia è italiano, anzi vorrei dire che mentre in media in Italia si usa un circa 60% di grano italiano, Barilla, grazie ad un impegno molto importante sul territorio, utilizza circa l'81% di grano italiano, quindi nonostante volumi altissimi, la quantità di grano italiano che noi utilizziamo è ben superiore alla media del mercato, quindi diciamo che In un pacco di pasta che viene prodotto in Italia c'è almeno l'81% di grano prodotto in Italia. L'obiettivo ovviamente della Barilla è quello di da sempre di dare un prodotto di qualità superiore e costante nel tempo, ed essendo l'Italia non autosufficiente per la produzione quantitativa e anche qualitativa di grano, soprattutto in grandi dimensioni, Barilla è costretta a cercare i migliori grani che provengono da ogni parte del mondo. Questa è la ragione per cui, laddove non c'è autosufficienza per quanto riguarda l'Italia, noi mescoliamo il grano italiano continuamente con i migliori grani che arrivano da altre parti del mondo, in particolare dal Nord America. Senta Virginio, molti sostengono questo, dice: è prodotto in Italia. Quando si dice la pasta è prodotta in Italia, tutto il resto, diciamo, non conta. Lei è d'accordo su questo? Ecco, io mi permetto, la ringrazio per la domanda che mi dà modo di esprimere un'opinione. Bisogna fare molta attenzione a non ingenerare nelle persone, nei consumatori, che tutto quello che non viene prodotto in Italia o le materie prime che vengono da fuori dall'Italia non sono di buona qualità o addirittura, cosa ancora più grave, che non siano sicure. Questa è una cosa gravissima a cui purtroppo stiamo assistendo, perché molto spesso materie prime che vengono fuori dall'Italia sono di una qualità eccellente, se non addirittura superiore. Quando si dice prodotto in Italia, per quanto ci riguarda, Barilla è un'azienda italiana, la pasta che produciamo in Italia è prodotta in Italia secondo tecnologie, saper fare, tradizione, competenze totalmente italiane, e laddove chiaramente la materia prima non è sufficiente, come dicevo prima, per quantità o qualità, siamo costretti ad andare a ricercarla fuori dall'Italia, ma andiamo a cercare materia prima di qualità che molto spesso è addirittura superiore. Se posso permettermi, Paolini, forse una cosa di cui ci deve rendere orgoglioso il nostro paese e che però, per esempio, Barilla negli ultimi anni si è impegnata profondamente a cercare di portare in Italia delle particolarità, dei particolari tipi di grano che prima non crescevano per condizioni climatiche, ovviamente. Le faccio un esempio: noi negli ultimi anni stiamo producendo un grano che prima coltivavamo, facevamo coltivare nel Nord America, e che in Italia non poteva crescere perché chiaramente le condizioni climatiche sono completamente diverse, ma grazie ad una grande collaborazione con gli agricoltori noi oggi riusciamo a coltivare in Italia quel grano, per cui non importiamo più dagli Stati Uniti quel grano, quindi c'è più lavoro per i nostri agricoltori, utilizziamo più materia prima a livello locale e ovviamente anche per Barilla è un risparmio economico, garantendo comunque la stessa qualità per i nostri consumatori. Quindi queste cose ci devono far riflettere, ma ci devono rendere anche orgogliosi, secondo me. Bene, rimanga con noi, perché ora dalla grande azienda mondiale andiamo a Gragnano. Ebbene, è un marchio ormai riconosciuto da tutti, la pasta From Gragnano è considerata di grande qualità, poi diciamo l'invenzione del paccaro, sicuramente che il paccaro che ormai ha invaso tutta la ristorazione, la ristorazione di alta qualità. Allora io chiedo a Zampino, Alberto Zampino del Pastificio Gentile, ma Zampino, le caratteristiche di Gragnano sono tante, sicuramente appunto i formati speciali, la tradizione, la storia, ma il grano, da dove è sempre arrivato il grano a Gragnano? Diciamo, è una storia ormai lunga di decine e decine di anni. È arrivato dall'estero, arriva dall'Italia, continua ad arrivare dall'Italia, oppure anche qui, diciamo, bisogna fare i conti con le quantità scarse del grano italiano? Davide, buongiorno a te. Buongiorno. Grazie per l'invito. Ti dico che apprezzo molto la descrizione che il dottor Vigilio della Barilla ha fatto. Oggi noi, anche noi a Gragnano, viviamo quella che è il deficit appunto di quantità presente sul mercato italiano. Tu immagina che noi abbiamo una produzione in Italia annuale di grano di circa 40 milioni di quintali di grano per un consumo interno di circa 60 milioni, quindi abbiamo un deficit ovviamente di 20 milioni di quintali. Questi 20 milioni di quintali, e questo mi associo e mi accodo al dottor Virginio, inevitabilmente devono essere importati dall'estero. Anche a Gragnano poi c'è una duplice realtà, una realtà industriale che segue la scia appunto di Barilla, che utilizza per la maggior parte grani italiani, ma deve necessariamente, per il deficit che c'è, utilizzare il meglio dei grani internazionali, stranieri, vedi il Canada, vedi l'Arizona, e in questo poi associato a quelle che sono poi la sapienza, la competenza, il know-how dei passai gragnanesi in generale e un po' le situazioni climatiche, l'acqua, le nostre caratteristiche principali, ecco che il prodotto gragnano ha un quid in più rispetto un po' a quello che è la situazione, a quello che è il settore pastaio. Nel caso specifico, come Pastificio Gentile, per l'esigua produzione che noi abbiamo di circa 4-5 mila quintali di grano, io abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di poter fare un accordo di filiera certo con utilizzando un grano totalmente italiano proveniente dalle colline materane, dandogli anche un nome e un cognome, che è il grano Senatore Cappelli. Questo però, Davide, è stato possibile perché così come diceva il dottor Virginio, avendo una domanda di grano, di fabbisogno di piccole quantità, si è riuscito a fare un protocollo d'intesa con gli agricoltori, perché oggi il problema, Davide, oltre appunto ad una frammentazione estrema che abbiamo sul territorio nazionale, che non ci permette di avere grandi distese e quindi possibilità di coltivare più grano, c'è anche una difficoltà di investire sugli agricoltori. Tu immagina che oggi noi il grano nazionale a quota più o meno sulla borsa di Foggia di circa 280-285 euro a quintale a tonnellata. Immagina che oggi noi come azienda investiamo più o meno almeno il doppio per l'acquisto solamente del grano che poi ci viene lavorato. Quindi il concetto è riprendere almeno, almeno le piccole produzioni, quelle che hanno la possibilità e quindi una necessità di grano inferiore rispetto alla massa critica che è sul mercato nazionale, di poter chiudere accordi e valorizzare l'agricoltore affinché non solo faccia una produzione dedicata, ma una produzione di qualità che inevitabilmente in alcuni casi, devo dire ahimè, ho scoperto e ho potuto constatare negli anni passati anche sulle nostre spalle, di grani internazionali canadesi all'Arizona con delle qualità di glutine, di proteine e di altre caratteristiche importanti che il grano ha, decisamente superiore ai nostri. Senti, proprio per la cultura, per il concetto di poter coltivare meglio rispetto a noi. Senti, volevo chiederti questo, esiste un consorzio dei produttori di Gragnano e c'è un disciplinare. Questo disciplinare prevede grano solo italiano per la pasta di Gragnano o anche di provenienza estera? Gragnano essendo sotto tutela IGP, quindi identificazione geografica protetta e quindi non una DOP, si prevede l'utilizzo di un grano con delle determinate caratteristiche senza dare delle direttive sulla provenienza. Però inevitabilmente ti dico, Davide, che la qualità del grano che a Gragnano si utilizza per la stretta e per le condizioni che il protocollo impone deve essere utilizzato un grano di grandissima qualità. Bene, grazie ad Alberto Zampino, Pasta Gentile, e a Luca Virginio, responsabile comunicazione Barilla. Il gastronauta. Buona pasta a tutti. Ebbene, questo è l'argomento che stiamo trattando ed è un argomento molto vicino a mezzogiorno, molto vicino anche a tutti noi. Devo anche dire che di questo tema poi sarà ripreso un dibattito anche a Taste a Firenze che è partito da pochi minuti e quindi si continuerà a discutere di un argomento che interessa molto perché ormai la filiera, il riconoscimento da dove arrivano i prodotti, chi produce, sicuramente sono fondamentali. Ormai anche il consumatore italiano è molto attento a questo, non come un tempo in cui sicuramente non era così sensibilizzato, e devo dire che forse è poco sensibilizzato. Io lo continuo a dire questo durante questa trasmissione sulla pasta, perché la pasta è un po' come il caffè espresso per gli italiani, si dà che sia una nostra cosa e quindi che siamo imparati su questo. In realtà non lo siamo per niente, anche perché ormai ci sono varietà di grano molto diverse che arrivano. Io credo che ad esempio sul Camut pochi sappiano cosa sia, ma magari poi lo vedremo anche questo, anche il senatore Cappelli, sono due nomi che ormai, due termini che ormai stanno diventando consueti nel linguaggio e anche sicuramente nelle etichette. Chissà però se queste etichette vengono lette, io spero proprio di sì. Ma ora ne voglio parlare con Claudio Mazzini della COP. Perché ne voglio parlare con Mazzini? Perché la COP ha un sito credo importante che sta sviluppando, cioè che attraverso un'etichetta si possa risalire alla fonte originaria, quindi alla materia prima e da dove arriva. E credo che questo la COP lo abbia messo a punto anche con la pasta. Mazzini, è così? Sì, buongiorno a tutti agli ascoltatori e buongiorno a te Davide. Allora, noi alla fine dello scorso anno abbiamo lanciato questo progetto che si chiama appunto Origini Trasparenti e abbiamo deciso di puntare tutta la campagna sul web, creando un portale ad hoc, entrando nel che si chiama COP Origini semplicemente, quindi www.coporigini.it, entrando nel quale vi sono, oltre alla possibilità di scoprire, digitando il nome del prodotto in un'area specifica in alto a destra del sito, da dove vengono le principali materie prime agricole che compongono il prodotto, anche tutta una serie di informazioni sul perché come sistema Italia siamo obbligati a importare grandi quantità di materie prime per fare poi straordinari prodotti gastronomici della nostra tradizione. Questa ci è sembrata un'operazione appunto di trasparenza proprio per questo motivo, per andare oltre ad alcuni falsi miti, no? Cioè, non abbiamo sufficientemente grano in Italia per fare tutta la pasta che consumiamo e che esportiamo, non abbiamo abbastanza farina per fare tutti i dolci che consumiamo ed esportiamo, non abbiamo abbastanza carni per fare tutti i salumi che ci servono. L'Italia è storicamente un paese trasformatore e in questo caso importare materie prime e vendere prodotti finiti fa sì che il valore aggiunto rimanga in Italia. Tutte queste cose secondo noi andavano raccontate con semplicità, andavano raccontate con estrema onestà, anche per non far credere che il Made in Italy sia qualcosa che non c'è. Vi è un Made in Italy in qualche modo legato alla sapienza, alla capacità dei nostri grandi produttori, e vi è un Made in Italy delle materie prime. Sono due cose che spacciare per uguali non è corretto verso il cittadino, il consumatore. Ecco, hai parlato di dati, hai parlato di non autosufficienza. Ci puoi dare uno specchio appunto di questi dati sull'import che è necessario per produrre quel quantitativo di pasta che poi esportiamo, diciamo, rimanendo in Italia, questa differenziazione di valore poi? Certo, sempre nel sito abbiamo prodotto insieme ad alcuni docenti universitari, tra cui il principale il professor Marco Zupperoli dell'Università di Parma, un vero e proprio bilancio di approvvigionamento, cioè fatto 100 quello che consumiamo, qual è il grado di autosufficienza del prodotto finito e della materia prima. E ci sono alcune cose carine, proprio sulla pasta è uno di questi esempi, cioè noi produciamo circa il 220% di quello che ci serve in termini di consumo, quindi vuol dire che una grande quantità di quello che produciamo lo esportiamo, ma per il nostro fabbisogno solo il 70% della semola di grano duro è prodotto in Italia. Se parliamo di farina, come dicevo prima, per fare dolci, biscotti, anche qui il grado di autoapprovvigionamento del prodotto finito è superiore, quindi anche qua vendiamo prodotti finiti, abbiamo grandissime industrie dolciarie che sono famose e riconosciute in tutto il mondo, solo il 40% della farina che serve per fare tutti questi prodotti è prodotto in Italia. Idem per le carni suine per fare i salumi, meno del 50% delle carni suine che servono per fare la mortadella piuttosto che lo speck, piuttosto che altri prodotti IGP straordinari dove la sapienza è meno della metà in realtà. Diciamo che non siamo solamente un popolo di poeti, santi e navigatori, ma siamo un paese, un popolo di trasformatori. Trasformatori, questo sì. è un fatto importante, io non lo vedo come un fatto negativo che invece vedono molti e stanno pensando all'autosufficienza. Credo che la trasformazione sia già un'abilità che hanno pochi nel mondo, ormai anche nella moda non è che produciamo, diciamo, la materia prima, quindi stoffe o d'altro il 100% in questo paese, così pure il legno per il design e per l'arredamento, quindi sicuramente lo siamo e come in agricoltura e diciamo nella trasformazione dei prodotti dall'agricoltura appunto in prodotto finito. Ma abbiamo con noi un produttore, diciamo Andrea Cavalieri, che è di una famiglia che diciamo da centinaia di anni produce pasta a maglie in provincia di Lecce, quindi tradizionale. Andrea, diciamo, è la nuova generazione. Io chiedo ad Andrea Cavalieri, quando un trasformatore si trova appunto di fronte a una crescita di domanda di produzione per la pasta, e spero che questo succeda continuamente anche all'azienda Cavalieri, come fa? Cioè, guarda lo sguardo prima al grano italiano oppure guarda al prezzo dei mercati internazionali? Buongiorno Cavalieri. Beh, Davide, innanzitutto buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'invito. Rispondo subito alla tua domanda. In natura non si possono fare salti, è un'azienda che punta tutto sulla qualità del prodotto da offrire ai propri consumatori e quindi sulla qualità della materia prima utilizzata, non può semplicemente affacciarsi ai mercati internazionali, quindi comprando materie prime che vengono scambiate regolarmente sui mercati, ma deve sviluppare un piano di approvvigionamenti di quelle materie prime che ti possono consentire di mantenere costante la qualità in termini di valori organolettici, nutrizionali e ovviamente di consistenza, di quella magnifica pastosità che una pasta di grande qualità deve avere. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale, quindi una crescita che deve essere anche prevista e programmata in modo da non dover volgere lo sguardo a materie prime commerciali. Io sono oltretutto molto d'accordo con quello che ho sentito fino adesso, cioè non si tratta questo problema della materia prima importata dall'estero, parlo nella generalità dei casi anche perché noi utilizziamo materia prima italiana, ma non è un problema di sicurezza alimentare, evitiamo falsi allarmismi come spesso sento in giro, è più un problema, come giustamente dicevi, di trasparenza verso un'esigenza del consumatore che sempre più spesso vuole conoscere quello che ha nel piatto. Bene, abbiamo con noi anche il presidente della Confagricoltura, Mario Guidi. Buongiorno Guidi. Buongiorno a voi. Senta Guidi, diciamo che sempre di più c'è una richiesta di etichettare la pasta, la provenienza del grano, ma è noto che noi non siamo autosufficienti per la produzione che appunto stiamo facendo e per l'export di pasta. Lei pensa che con una politica agricola di sostegno si possa arrivare all'autosufficienza della produzione in Italia del grano per produrre ad esempio semola dura, pasta di semola dura? Beh, forse non all'autosufficienza, perché significherebbe espellere dalla coltivazione altri tipi di colture come il mais, come le proteiche, e quindi forse non sarebbe un bene per il paese nel suo complesso, ma certamente potremmo migliorare la qualità delle nostre produzioni in modo da renderci più autonomi rispetto alle importazioni di un prodotto particolare come il grano duro canadese che serve ai nostri mulini e ai nostri pastifici. Per fare questo servono delle scelte di politica agricola che orientino anche la produzione agricola e la sostengano nella produzione di un grano di qualità adeguata alle richieste dell'industria. Ma negli ultimi tempi c'è stato un grande boom di questo grano Camut o Camut, chiamiamolo come, e all'improvviso abbiamo riscoperto quasi per fare concorrenza a questa varietà abbiamo riscoperto il senatore Cappelli. Ecco, io mi chiedo, ma perché è rimasto per tanti anni il senatore Cappelli così chiuso nel cassetto, non se ne parlava, oppure veniva prodotto e non era a livello di conoscenza comune? Tutto questo è legato anche alle abitudini alimentari e alle innovazioni anche alimentari che noi offriamo. Il Camut e gli altri prodotti di nicchia che sono rimasti nascosti fino ad oggi non servivano, perché di fatto non c'era un'industria alimentare che ponesse un prodotto finito a base di questi grani, e quindi, come si conferma, siamo tutti un po' legati nella filiera anche all'ingegno di una proposta alimentare di tipo diverso. Io vedo sugli scaffali dei supermercati, ma anche nei ristoranti, che c'è una grande promozione perché è un prodotto di elevata qualità, e attraverso questa proposta possiamo anche riscoprirne la capacità di coltivarlo. Cavalieri, lei come spiega questo boom del Camut? Il boom del Camut è dovuto sicuramente a buona parte a una comunicazione che è stata fatta sul prodotto. Sicuramente questo è possibile perché c'è dietro una multinazionale che sicuramente ha questo interesse, anche grazie a vari produttori che hanno voluto fortemente investire in questo prodotto, nella diffusione dello stesso. Per quanto riguarda il senatore Cappelli, che per quanto mi riguarda considero una varietà di grano duro sicuramente molto valida per la panificazione, meno per la pastificazione, per delle sue qualità intrinseche, sicuramente questo grano è stato un po' messo da parte proprio perché non garantiva quelle rese e quella costanza di raccolto che altre varietà nuove potevano garantire all'industria molitoria, e quindi questo ne ha sicuramente limitato il suo utilizzo successivo. Bene, grazie Andrea Cavalieri e Claudio Mazzini. il gastronauta. Di nuovo pasta. L'ora X della tavola sta per scoccare. Tutti pronti a buttare nella pentola bollente, di acqua bollente, spaghetti, penne e un po' di tutto, insomma, pasta, sempre pasta, perché è noto, siamo un popolo di mangiatori di maccheroni, come si dice, ma diciamo che nel tempo, appunto, la pasta sta cambiando, sta cambiando la domanda, come dicevo prima, appunto Camut e senatore Cappelli oggi definiscono anche così, diciamo, la varietà di grani, cosa che in passato non era mai successa, quindi l'etichetta, diciamo, si è incrementata, ma si è incrementata fino a un certo punto, perché la provenienza del grano ancora non è assolutamente obbligatoria e appunto molti non la mettono, anche perché abbiamo visto durante questa trasmissione che siamo importatori, quindi siamo grandi importatori. C'è la difficoltà, appunto, quando si fanno diverse miscele nel tempo, di garantire appunto l'esatta dicitura sull'etichetta, quindi esistono moltissime difficoltà. Ma io voglio chiedere a Gabriella De Matteis, che è appunto Mulino De Matteis, nonché anche Pasta Grano Armando. Questa azienda ha creato due linee. La Pasta Grano Armando è un grano interamente italiano, mentre poi hanno una produzione molto più vasta, che appunto è anche di importazione. Chiedo a Gabriella De Matteis, questo è successo per un'esigenza di domanda di mercato? Buongiorno innanzitutto a lei e ai radioascoltatori. Ma diciamo che la nostra scelta è stata una scelta coraggiosa ed è nata quattro anni fa da una riflessione su quanto la genuinità del cibo e a maggior ragione della pasta sia sempre più in stretta relazione con la materia prima ed il mondo d'origine. Quattro anni fa abbiamo deciso di mettere su una filiera italiana del grano duro. Ed è stato un successo, abbiamo creato un contratto di coltivazione che si chiama appunto Armando per la realizzazione di un grano duro 100% italiano, ma un grano dall'elevato contenuto proteico, non solo italiano, quindi un grano eccellente, finalizzato poi alla produzione della nostra pasta che si perché chiama Armando? Perché l'ha chiamata Armando? Armando è il nome del presidente di che ha avuto la fortuna di realizzare il suo sogno, e il sogno di Armando è anche il nome di un cortometraggio che racconta la nostra storia e che abbiamo realizzato l'anno scorso con Luca Miniero, che racconta la storia di questo sogno splendido realizzato, ed è un cortometraggio realizzato tra i campi di grano italiani. L'ho visto che si vede il sogno bello, con una barca che va tra il grano, è un sogno. Ma è io stato, mi dica prego. È stata, ripeto, una scelta coraggiosa perché significava mettere su una filiera e quindi organizzare una comunità, la comunità degli agricoltori Armando. Nel giro di quattro anni le aziende agricole che hanno aderito a questo contratto di coltivazione sono cresciute in maniera esponenziale. Erano quasi 100 il primo anno, quest'anno sono quasi 1000 le aziende partecipanti, 38 stoccatori, mi scusi se le cito questi numeri, però sono importanti. E 11.400 sono gli ettari seminati, abbiamo 9 regioni coinvolte e 18 province coinvolte. Beh, insomma, un lavoro non indifferente. Eccellente. Ma rimanga con noi, io voglio chiedere a Mario Guidi, presidente appunto di Confagricoltura, se il sogno degli agricoltori è quello di vedere sulla pasta l'etichetta grano italiano. Certamente sì, come veniva spiegato adesso, l'esperienza è un'esperienza di successo che può solo far bene all'agricoltura italiana. Naturalmente noi in Italia coltiviamo 1.300.000 ettari di grano duro, e di gran lunga la superficie più estesa di una singola coltura, su territori molto diversificati, con caratteristiche molto diversificate, e quindi abbiamo bisogno di una pluralità di varietà. Ma certamente possiamo far parte volentieri del sogno del dottor Armando, del presidente Armando, che è un sogno credo anche tutto italiano. Bene, voglio chiedere a Lorenzo Cocco, appunto dell'azienda Cocco, se anche il sogno della sua azienda di avere tutto grano italiano. Sicuramente sì, buongiorno. E sarebbe proprio una bella cosa riuscirci, infatti. Anche noi lavoriamo in questa direzione, è dura, però Ma ci sono difficoltà a reperire appunto per la produzione, per la vostra produzione, qualitative o quantitative di tutto allora, grano italiano, Cocco? Il discorso nostro è sicuramente più indirizzato alla qualità assoluta, no? Quindi non abbiamo un problema quantitativo. Il problema è cercare la produzione eccellente e trovare la produzione eccellente. Sicuramente si stanno facendo grandi passi in questa direzione, si cominciano a vedere i primi frutti e quindi sicuramente siamo contenti. Senti, ma voi usate Camut? Sì. Usate con quali risultati? Allora, per come la vedo io è sicuramente un discorso prettamente commerciale di marketing, nel senso che, per come la vedo sempre io, quindi è un discorso molto soggettivo, certo. Il grano che abbiamo noi in Italia non ha nulla da invidiare a quella produzione che viene fatta in Canada. È chiaro che però quello che percepisce il consumatore è spesso sempre qualcosa di diverso. Quindi su quest'onda bisogna comunque rispondere alla domanda del consumatore, la produciamo come pasta. Senta, posso dare io una percezione del consumatore, poi lei mi dice se è questa oppure no, che sia una pasta che non contiene glutine. Alcuni pensano che sia pasta che non contiene glutine, altri pensano che sia più salottistica degli altri grani. Questa è la percezione che io colgo tra i consumatori. Nella confusione generale che regna sovrana in quello che è il discorso alimentare, questo è assolutamente vero. Cioè, sembrerebbe che il Camut abbia delle proprietà taumaturgiche addirittura per tante persone. Poi è anche vero che come la pillola di farina, cioè se uno ci crede alla fine il beneficio lo ottiene, certo. No? E quindi il nostro lavoro sta proprio quella nel cercare di far capire, di far comprendere, di orientare anche la conoscenza fondamentalmente, perché poi, per carità, la qualità è sicuramente un dato oggettivo assoluto, perché si fanno le analisi alle cose, quindi non è che si possono inventare, cioè il glutine c'è, per cui c'è. Senta, costa molto di più il grano Camut? 5 volte. Ah, addirittura, quindi cinque volte. Poi pesano sicuramente sul prezzo della pasta un discorso di questo genere. No, la proporzione è sempre tale. È chiaro che lì sicuramente sono stati bravi nel valorizzare una produzione estremamente localizzata. Nel senso che hanno fatto credere oppure hanno trovato la maniera per sicuramente dare un valore a una produzione che è quello che manca a noi. Sicuramente chi acquista la pasta Camut pensa di acquistare un qualcosa che ha un contenuto, se vogliamo, salutistico di altro genere, sicuramente superiore a un altro grano, a una semola dura. Ma io voglio tornare a Mario Guidi e voglio chiedere se veramente bisogna battersi anche a livello comunitario per poter far sì che la pasta abbia questa etichettatura anche con la provenienza e quindi la provenienza della materia prima. Ma io la considero ad oggi un'opportunità per i pastifici, per i molini e per l'agricoltura italiana, per cogliere un mercato che è un mercato molto indirizzato. Vede, spesso il problema per noi italiani è di due ordini di noi agricoltori italiani, di due ordini di misure. Molto spesso i prodotti, il grano di qualità con elevato contenuto di proteine ha un difetto di produttività. E per l'agricoltore, in primis, il sogno dell'agricoltore è poter fare, come credo tutti, reddito nella propria azienda, e quindi si tratta di bilanciare la capacità produttiva con la remunerazione di questo prodotto. L'altro problema che abbiamo in Italia e per cui spesso ci affidiamo ad importazioni estere non è tanto l'assenza della produzione, quanto la nostra incapacità di organizzarla, di stoccarla adeguatamente e di fornirla in maniera coordinata e continuativa ai mulini e quindi ai pastifici, cosa che per esempio hanno gli altri paesi. Quindi c'è da organizzare ancora meglio la filiera per poter fornire un prodotto omogeneo nel tempo, e questo è un difetto tutto italiano. Cocco, lei è d'accordo sull'etichettatura con la provenienza del grano? Sì, sicuramente sì. Quanto più il consumatore capisce, tanto meglio è per tutti alla fine, perché poi almeno è libero di scegliere. Beh, giusto questo. Gabriele De Matteis, lei è d'accordo? Mi sembra di sì, perché avendo fatto una linea appunto doc. Ovviamente. effettivamente in Italia c'è una difficoltà oggettiva nel reperire materie prime, però vorrei dire che proprio questi contratti di filiera possono essere un aiuto immenso, perché anche la produttività, a cui accennava il dottor Guidi, la scarsa produttività, sono o quegli altri problemi a cui accennava, possono essere superati attraverso questi contratti di filiera. Il nostro, per esempio, il contratto Armando prevede il rispetto di un disciplinare molto rigido, un disciplinare di coltivazione molto rigido, che è fondamentale per raggiungere il livello di proteine richiesto, ma è anche la produttività, quindi la corretta messa a punto di questo disciplinare consente all'agricoltore anche di avere dei risultati eccellenti anche dal punto di vista della produttività e non soltanto della qualità. Quindi io sono convinta che c'è una strada senz'altro per risolvere tutti questi nostri problemi, e Armando effettivamente dimostra che è possibile. Bene, io ringrazio Mario Guidi, Gabriella De Matteis e Lorenzo Cocco, e auguro a tutti i nostri ascoltatori, che a questo punto saranno vicino ai fornelli, di mangiare di assaggiare una grande pasta italiana. E su questo diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, perché sicuramente abbiamo in Italia non so quante aziende che mettono sul mercato un prodotto di straordinaria qualità, e ci auguriamo proprio per chiarezza del mercato che prima o poi, appunto, sull'etichetta compaia anche la provenienza del grano, perché così veramente sappiamo fino in fondo ciò che mangiamo. Anche perché in passato, appunto, abbiamo visto delle vicende abbastanza, come posso dire, preoccupanti di navi di grano che viaggiavano da un porto all'altro, appunto, con sicuramente un contenuto e un carico che non era molto, ma molto chiaro. Bene, io vi auguro un buon weekend a tutti, e vi ricordo che che è già iniziata Firenze Taste, che è una rassegna della più straordinaria collezione italiana di prodotti gastronomici. Buon weekend a tutti, grazie.